strettamente connesse con quelle dell'Istituto Storico Italiano. Salvo un mio possibile errore di ottica, dovuto al fatto che, a differenza dell'Istituto Storico Italiano, la Società Romana di Storia Patria ha celebrato il suo centenario nel 1976, era stata fondata nel 1876, mentre l'Istituto Storico Italiano non ha celebrato il suo centenario che ricorreva nel 1983. Non l'ha celebrato perché, per due ragioni, perché da poco era avvenuto nel 1983 il cambio della guardia alla presidenza dell'istituto, che è avvenuto nell'estate dell'82, e quindi il nuovo presidente, che poi è chi vi parla, non se l'è sentita di organizzare una celebrazione senza aver fatto mente locale, come si dice. In più c'è una difficoltà più sottile di carattere diplomatico, nel senso che l'Istituto Storico fu creato nel 1893 come Istituto Storico Italiano e quindi lo vedremo tra poco con una giurisdizione almeno in teoria sull'intero arco della storia d'Italia, mentre poi fin dall'inizio l'Istituto Storico Italiano, fondato nel 1893, si qualificherà di fatto come istituto di studi medievali. Ma a partire dal 1934, essendo stato creato un istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'istituto storico italiano iniziale, originario, ha dovuto cambiare il suo nome ed è diventato l'istituto storico italiano per il Medioevo, tuttora esistente. Quindi c'era un po' una difficoltà, un pudore da parte mio, da parte mia, a promuovere in fondo una celebrazione che avrebbe dovuto vedere coinvolti anche gli altri istituti, perché poi oltre quello per la storia dell'età moderna e contemporanea è stato creato quello per l'età antica, per la storia antica e quello per il Risorgimento. E quindi in realtà il centenario non era un centenario che riguardava il solo Istituto Storico Italiano per il Medioevo, ma riguardava anche gli altri. Certo, Raffaello Morghi, il mio predecessore, avrebbe avuto l'autorità necessaria per promuovere senz'altro una celebrazione a nome del suo istituto e che riguardasse anche tutti gli altri. Io non me la sono sentita, confesso questa mia timidità. Ma come vedremo, siamo ancora in tempo. Lo saremmo stati ancora quest'anno, nell'85, perché creato nell'83 questo istituto è stato la legge istitutiva dell'83, e la vedremo subito, ha cominciato a funzionare nell'85, e quindi saremmo stati ancora in tempo, ma penso che sia una terza data, e lo vedremo poi, quella dell'87, quella che casomai andrebbe ricordata, e approfitto qui della presenza del collega e amico Tabacco, che fa parte del consiglio direttivo dell'istituto, per lanciare fin da oggi questa proposta per una possibile celebrazione dell'87, di cui cercherò di dare la giustificazione stamattina. Nel frattempo, cioè tra l'83 e l'85, more solito, con l'istipica instabilità governativa italiana, era cambiato il ministro della pubblica istruzione. Baccelli era il ministro della pubblica istruzione a cui risale il decreto istitutivo dell'istituto. Sarà Coppino, 2 anni dopo, a mettere in marcia, invece, a far funzionare per la prima volta l'istituto. È evidente il mio interesse particolare a ripercorrere le origini, la vicenda delle origini di questo istituto, e quindi ringrazio l'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, che mi ha dato un'occasione di andare a vedere più chiaramente nel passato di questa istituzione alla quale è così intimamente legata la mia attività di studioso, per quel poco che vale, e quindi è un'occasione della quale ho voluto approfittare. Dico subito che non tutti i nodi che questa storia presenta hanno potuto essere finora sciolti. Ci sono degli aspetti che ancora mi sfuggono e che conto poi di poter risolvere anche con l'appoggio di alcuni dei presenti. Ieri pomeriggio mi è stato detto, purtroppo non ero potuto essere presente, che si è parlato di Villari, e Villari è stato certamente uno dei protagonisti di questa fase iniziale della vita dell'Istituto. Ma vediamo che cos'è accaduto nel 1883, quando l'Istituto è stato creato. L'Istituto è stato creato con un decreto del 25 novembre, quindi alla fine dell'anno, decreto reale, che è firmato da Umberto Re d'Italia e contrafirmato da Guido Baccelli, ministro della Pubblica Istruzione. Questo decreto è accompagnato da una relazione sulla quale mi soffermerò un momento, perché secondo me è molto interessante. La relazione comincia a far riferimento alla grande opera che ha ridestato la coscienza nazionale con l'amore agli studi storici, l'opera cioè di Ludovico Antonio Muratori, che, parafraso il testo della relazione, ha divulgato nei Rerum Italicarum Scriptores le fonti storiche, le ha discusse nelle Antiquitates e le ha ordinate, non si capisce perché ordinate, meglio sarebbe stato dire utilizzate, negli annali della storia d'Italia. Muratori, insomma, così prosegue questa relazione ministeriale, provvide la patria del più considerevole monumento storico di cui ella potesse a buon diritto gloriarsi. Quest'opera del Muratori, prosegue Baccelli, che in Italia poté essere di un uomo solo, fu imitata dalla dotta Germania, nel modo che era più consentaneo al genio di quel popolo e alle condizioni dei tempi che allora correvano. Cioè, dove noi ci saremmo immaginati, in fondo, di trovare nel prologo a una legge che istituiva l'Istituto Storico Italiano con un compito di sovrintendere all'edizione di fonti un riferimento ai monumenti a Germania storica che rappresentavano la grande iniziativa del secolo in questo settore, invece con disinvoltura il ministro Baccelli presenta la dotta Germania come imitatrice, evidentemente con i monumenti a Germania, di questa intrapresa di un uomo solo, di questo gigante che era stato Ludovico Antonio Muratori. E pertanto, se colà, cioè in Germania, studiosi in gran numero precedettero con lavori originali la formazione di un corpus scriptorum rerum germanicarum, immaginato più tardi e promosso dal generale Stein e condotto dal Perz, presso di noi invece le ricerche storiche, le ricerche analitiche, particolari, minute, incominciarono quando già la grande raccolta storica del Muratori giganteggiava. E qui ritorna in altra forma, più ancora diretta, l'idea che il Muratori avesse fatto da solo il monumenta Italia storica. La parola non ritorna nel testo, ma è chiaro che è quello che si vuole dire. Sicché l'industria degli studiosi fu tutta volta a curarne, forbirne e svolgerne le varie parti, illustrando e discutendo minutamente la storia delle singole province, dietro le orme dell'illustre critico, onde può affermarsi che in Italia si ebbe prima il duce che l'esercito, cioè prima i muratori e poi questa massa di studiosi che, sviluppando il lavoro già fatto, nato tutto come Minerva dal cervello di Giove, dall'opera straordinaria di questo italiano del secolo XVIII, non c'era altro da fare che lavorare sui dettagli, sui contorni. E a quest'opera si accinsero con fecondo ardore le regie deputazioni e le società di storia patria, le due istituzioni che attendevano agli studi storici in Italia, le deputazioni di nomina e di iniziativa regia, o perlomeno non regia per quello che riguarda il Piemonte e degli altri stati italiani a secondo dei principi che li governavano, e invece le società di storia patria, cioè delle vere e proprie associazioni private, insomma, che nascevano per attendere agli studi, sorte tra noi in tempi diversi, fondando pubblicazioni periodiche, dando in luce volumi di documenti, ritornando con pazienti indagini sulle vestigia muratoriane. Cioè l'opera delle deputazioni storiche e delle società di storia patria viene sintetizzata in questo ritorno paziente sulle vestigia murateriane. Cioè, in principio era Ludovico Antonio Muratori. Lo Stato, continua la relazione Baccelli, ha finora partecipato con contributi finanziari a questa attività, equiparando le società alle deputazioni, si era divenuti all'esigenza di equiparare le deputazioni, a cominciare da quella subalpina, di equiparare le società alle deputazioni, e quindi per esempio la società romana di Storia Patria, la società napoletana, la società siciliana, a quelle invece, alle vere e proprie deputazioni, che erano quelle in cui c'era questa impronta del governo centrale. Ed era stato importante questo intervento dello Stato, che equiparava, per quello che riguardava i contributi, le une alle altre, non distinguendo più tra quelle che aveva messo in essere lui e quelle che invece erano nate per iniziativa dei singoli. Se non che, e qui ci siamo, insomma, alla motivazione della fondazione del nuovo istituto, fra il continuo avanzare delle discipline storiche ben s'avvidero i cultori di queste, che se l'impero spontaneo, l'impulso spontaneo, la limitazione nel campo delle indagini, la libertà e la costanza del metodo avevano portato frutto, questo era tale ormai da ravvivare il desiderio che nuovamente si tornasse ad un'azione comune, confederando, attenzione alla parola, confederando le forze scientifiche regionali ad opera omogenea per riprendere l'edizione degli scriptores Storie Patrie, con mezzi più ampi, usando gli arredamenti e i soccorsi dell'odierna critica. Quindi si fa riferimento al progresso degli studi, si fa riferimento alla esigenza appunto di tornare a un'azione comune, che non può essere più un'azione però unitaria come quella che all'origine aveva compiuto Muratori con quella sua iniziativa prodigiosa, ma semplicemente attraverso una iniziativa più modesta a questo punto, che consentiva nel confederare, nel mettere insieme, la parola è presa dal linguaggio naturalmente del politico del tempo, anche ieri è uscito nell'intervento di Petersen, se non ricordo male, questo riferimento alla possibilità di una soluzione confederale addirittura del problema politico italiano, e quella soluzione che invece era stata scartata dalle cose perché era prevalsa una soluzione unitaria, si pensava ora invece di introdurla per quello che riguardava l'organizzazione degli studi storici. Quindi si sarebbe dovuto confederare le forze scientifiche regionali in modo di riprendere le edizioni degli scriptores Storie Patrie con mezzi più ampi e naturalmente con i sussidi della critica storica più recente, e qui il riferimento era implicito a quello che si faceva in Germania, ma ripeto, non compare, soltanto che in quel momento parlare di progressi della scienza in questo campo voleva dire far riferimento all'erudizione e alla filologia storica tedesca. Conclusione: Laonde, provvedendo, come era mestiere, come era necessario, alla iniziativa delle singole deputazioni e società di Storia Patria, mantenendone ferma l'autonomia, vedete come è pieno di cautele questa relazione ministeriale che accompagna il decreto, ma volendo al tempo stesso, e qui si cercava di realizzare la quadratura del cerchio tra il rispetto dell'autonomia e l'esigenza prima indicata della confederazione delle forze, che tutte le forze si congiungano nell'obietto supremo della Storia Patria e del patrimonio scientifico di ognuno diventa il patrimonio di tutte, ho divisato di proporre alla maestà vostra il decreto di fondazione di un istituto storico italiano. E qui alla fine erano anche citati i voti in tal senso che erano stati espressi dai due congressi storici nazionali di Napoli 1878 e di Milano 1879. Attenzione alle date, perché come vedrete hanno un certo interesse. Vediamo ora il testo del decreto, che porta la stessa data del 25 novembre 83. Nella motivazione è ripreso il motivo, cioè dell'ultima parte della relazione che lo accompagna, sull'utilità di congiungere le forze di deputazioni e società di Storia Patria in vista del supremo obiettivo di illustrare la storia d'Italia. Quindi c'è questo riferimento a questa idea di confederare le forze storiche regionali. L'articolo primo sancisce la fondazione dell'Istituto Storico Italiano allo scopo, qui cito la lettera, di dare maggiore svolgimento, unità e sistema alla pubblicazione dei fonti di storia nazionale e di promuovere segnatamente quei lavori preparatori che per essere di interesse generale eccedano i limiti, gli intenti, nonché i mezzi delle deputazioni e delle società storiche nazionali. L'articolo 2 prevedeva che l'istituto si componesse di 15 membri, 11 delegati dalle 5 regie deputazioni e dalle 6 società di storia patria, 5 più 6, 11, 4 nominati dal ministro della pubblica istruzione. Gli altri articoli si limitano a prevedere la sede di questo istituto, che deve essere Roma, la periodicità annuale del plenum dei 15 membri, che almeno una volta l'anno dovevano riunirsi, e la nomina di un presidente e di una giunta esecutiva di 3 membri. E la clausola che il presidente e i 3 membri della giunta esecutiva dovevano risiedere a Roma. Questo è il decreto, diciamo pure è il topolino partorito da questa montagna, perché in realtà, come vedete, è ben poco la struttura effettiva di questa nuova, di questo nuovo istituto, e ci si rende conto, vedendo la prudenza con cui si è voluto operare, di non creare un istituto centrale che desse ombra alle deputazioni e alle società di storia patria. Di questo decreto sono possibili due letture, come spesso accade nella ricerca storica. Una, alla luce della relazione che lo accompagna, il che vuol dire alla luce delle intenzioni che l'hanno ispirato in quel momento, l'altro alla luce di ciò che invece sarebbe successo in seguito e che avrebbe spostato molto i termini della questione rispetto a quella che è stata l'impostazione iniziale. E sceglierò la prima, anche perché se l'istituto percorrerà un suo cammino non previsto dal legislatore, ma probabilmente segnato nelle cose stesse, le intenzioni, o per meglio dire le perplessità che ne hanno accompagnato la nascita, spiegano le difficoltà che l'istituto ha poi dovuto superare e che sotto certi aspetti non ha mai superato del tutto. In realtà l'istituto, come avete sentito dalla lettura del decreto, non veniva istituito perché provvedesse a pubblicare le fonti per la storia d'Italia, che poi è la collana che l'istituto avrebbe iniziato nel 1887 con le gesta d'anonimo di Federico Barbarossa a cura di Ernesto Monaci, che è il numero uno della collana delle fonti della storia d'Italia. Non si fa nessun riferimento in fondo a una collana di fonti dell'istituto. Si dice semplicemente che l'istituto era creato per dare maggiore svolgimento, unità e sistema alla pubblicazione delle fonti medesime, e al secondo punto, casomai, prevedeva che un compito specifico dell'istituto fosse quello di promuovere quei lavori preparatori all'edizione delle fonti, che quindi sembrerebbe avrebbe dovuto essere opera delle sole società storiche e deputazioni, quei lavori preparatori che per essere di interesse generale eccedono i limiti, gli intenti, nonché i mezzi delle deputazioni e delle società storiche nazionali, che poi sono, come risulta dai verbali dei primi anni dell'istituto, una serie di iniziative come quello di una bibliografia delle fonti, oppure di una bibliografia addirittura generale della storia d'Italia, oppure quella di cataloghi regionali delle fonti edite e inedite, iniziative che invece poi l'istituto non porterà a termine. Che questo fosse l'intento risultante, l'intento che era in mente, che era nella testa di chi ha promosso l'istituto, si ricava dalla struttura dell'istituto stesso, perché se si fosse voluto fare qualcosa di più, cioè un istituto che provvedesse in proprio a svolgere un'attività di produzione di edizioni, soprattutto, non ci si sarebbe limitati a creare un istituto che non ha sede, perché dice l'istituto deve avere sede in Roma, ma non vuol dire dargli dei metri cubi di spazio, e quindi neppure una biblioteca. Non si prevede personale scientifico proprio, perché questi 15 che si riuniscono di norma una volta l'anno, e tenete presente che tra questi 15, tra i 4 nominati dal governo, c'è Francesco Crispi, destinato tra poco a diventare presidente del Consiglio nel 1889, quindi vi rendete conto di come era fragile la struttura di questo istituto. È evidente l'importanza che si attribuiva alle deputazioni e alle società di storia patria, e che non si era voluto in nessun modo andare contro le loro prerogative, ed è evidente soprattutto, e questo è un punto da tenere presente in vista di quello che succederà dopo, il riferimento a Muratori. Riferimento a Muratori perché Qui sembra un riferimento retorico, questo muratore che sarebbe addirittura stato imitato dalla dotta Germania, e invece vedremo che in tutti i primi anni di vita dell'istituto questa presenza dell'ombra di muratori, fare come ha fatto muratori, rifare il muratori, fare diversamente dal muratori, sarà una specie di incubo continuo gravante sui membri dell'istituto. Ora, qui bisognerebbe, naturalmente, ad averne la capacità di farlo, fare rapidissimamente una sintesi di quello che era stato il lavoro di edizione di fonti delle deputazioni e della Società di Storia Patria, ma è chiaro che non mi si può chiedere questo in questa sede, ma è sulla base di questo che bisognerebbe appunto giudicare effettivamente il realismo del legislatore italiano. Devo dire che va escluso completamente che in questa prospettiva di riferimento al muratori, di continuo riferimento al muratori, ci sia, come ci sarebbe stato 20 anni più tardi, e lo vedremo concludendo, un intento di critica nei confronti della scienza storica, dell'erudizione storico-filologica tedesca. Questo è un momento in cui, in questi anni ancora, in cui la cultura italiana, in particolare il ceto di governo italiano, era tutto pieno in fondo di questo senso di un complesso di inferiorità addirittura nei confronti della scienza storica tedesca, della scienza tedesca in generale. Non dimentichiamo che il 20 novembre 1870, inaugurando i corsi all'Università di Roma, allo Studium Urbis, restituito insomma allo Stato, Emidio Pacifico Mazzoni aveva detto: è la scienza che ora pone la Germania a capo dell'incivilimento e del progresso. Quindi non c'è nessun sottinteso, diciamo così, di nazionalistico italiano nei confronti della Germania. Qui quello che c'è semplicemente è il rispetto per queste istituzioni storiche che in nessun modo si voleva scontentare. E questo mi ha ricordato un giudizio di un amico modernista, cioè di Rosario Romeo, che con l'esperienza che gli viene dall'aver studiato la formazione dello Stato unitario in Italia, una volta mi ha detto, non so se l'abbia mai scritto, me l'ha detto in conversazione, dice: in Italia tutte le riforme, sia che si tratti di riformare l'amministrazione o qualunque altra cosa, partono su modelli anglosassoni per poi approdare invece a esiti di tipo francese, cioè di tipo centralistico. Lui faceva riferimento soprattutto alla grande discussione sull'organizzazione provinciale in Italia che c'era stata negli anni dopo il 60. E succede sostanzialmente lo stesso con gli studi storici: si parte con un'ipotesi appunto di decentralizzazione, alla fine invece poi le cose porteranno in una direzione francese. Qui faccio riferimento al modello anglosassone e modello francese perché erano quelli che erano più attuali nella discussione sull'assetto amministrativo del paese. Ma perché allora l'istituto viene fondato? Dico, perché con tutte queste remore, con tutte queste preoccupazioni, questo istituto lo si fa? Si poteva benissimo non farlo, uno potrebbe dire. C'erano i voti dei due congressi, ma erano passati 4 anni dall'ultimo dei congressi, quello del 79, quando ci si decide a fare questo passo. E non si può dire che ci fossero di mezzo difficoltà finanziarie, perché la creazione di questo istituto così concepito non costava praticamente niente. È chiaro che non c'era un problema di bilancio che potesse spiegare il ritardo. E qui si apre quello che è l'aspetto in fondo più misterioso. Nel necrologio di Ernesto Monaci, pubblicato da Pio Raina nell'archivio della Società Romana di Storia Patria nel 1918, Raina dice di aver saputo che il Monaci, che fu uno dei 15 della prima consiglio direttivo dell'istituto come rappresentante della Società Romana di Storia Patria, e Oreste Tommasini, il famoso biografo di Machiavelli e anche lui magna pars della Società Romana di Storia Patria, erano stati chiamati da Guido Baccelli riservatamente, che gli aveva chiesto di inventare qualche cosa che si potesse contrapporre alla fondazione dell'Università Gregoriana e all'apertura dell'archivio segreto Vaticano. E Pratesi, che ha riportato questa testimonianza in uno scritto comparso nel volume della Società Romana di Storia Patria destinato al centenario, dice che probabilmente il riferimento alla Gregoriana concerneva l'istituzione della facoltà di diritto canonico nel 1876, se no non si spiegherebbe, mentre quello dell'archivio Vaticano è dell'Archivio Vaticano è più sicuro. Ma Monsignor Maccarrone mi ha messo sulle tracce di una cosa più pertinente e che è veramente attinente all'anno 1883. Il 18 agosto del 1883 è la data in cui Leone XIII rivolge ai cardinali Antonino De Luca, Pitra e Jürgen Reiter, il famoso storico di Fozio, la lettera che viene ricordata come Sepe numero considerantes. Ora, questa lettera di solito è citata in modo favorevole per mostrare in fondo l'apertura culturale di Leone XIII. In questa lettera, nell'ultima parte, Leone XIII fa riferimento all'apertura dell'Archivio Vaticano, che ormai era una cosa di qualche anno prima, ma dice che è urgente però rendere accessibile al pubblico anche la biblioteca Vaticana, e quindi è fondamentale questo documento per l'apertura della Vaticana al pubblico. E sarebbe stato chiunque abbia lavorato da quelle parti sa benissimo che l'apertura dell'Archivio Vaticano senza accessibilità alla Biblioteca Vaticana sarebbe stato praticamente poco, insomma ci voleva questo supporto librario, la consultazione dei documenti. Quindi è citata nella linea dell'apertura culturale di Leone XIII, il promotore degli studi tomistici, del ritorno a Tommaso, eccetera. In realtà la lettera, se uno poi la va a leggere dalla prima parola all'ultima, in un latino difficile e oscuro, pieno di dire e non dire, nello stile della diplomatica pontificia, è un grande manifesto contro lo Stato unitario italiano, e ripropone come compito principale, direi, di questa scienza storica che sarebbe dovuta maturare tra archivi e Biblioteca Vaticana, il compito di riscoprire le buone ragioni della Chiesa di Roma per quello che riguardava il potere temporale. Insomma, il significato, il grosso di questa lettera avverte su questa materia. Quindi da una parte ci sono questi incorrupta rerum gestarum monumenta, cioè questa integrità, questa verità storica nella sua integrità, che parla chiaro per ciò che riguarda i benefici della Chiesa verso tutte le genti, e in particolare verso quelle quorum in sino sedem apostolicam providentia dei collocavit, quindi l'Italia che ha avuto questa fortuna di avere la sede apostolica nel suo paese. Però si fa il possibile per attentare a questa integrità della verità storica. I primi a dare il colpo sono stati i centuriatori, c'è tutta una lunga parte sui centuriatori. L'esempio dei centuriatori, proprio nel momento in cui nei paesi protestanti ci si sta ravvedendo, si stanno riconoscendo i meriti della Chiesa, è stato seguito anche da religione cattolici in azione Italy, cioè gli italiani hanno finito col fare peggio, loro che pure hanno avuto la fortuna di rimanere nell'unità della fede cattolica. Per astio ci si impegna in dettagli futili senza badare all'essenziale, e tutto quello che riguarda appunto il civilis romanorum pontificum principatus viene preso di mira. E lì fa riferimento ad alcune occasioni in cui questa ostilità contro la Chiesa era esplosa nella maniera più irriverente e intollerabile: le celebrazioni del Vespro siciliano, le celebrazioni dell'Homo Brixiensis, che sarebbe chiaramente Arnaldo da Brescia. Tutto questo, non contenti di farlo in congressi scientifici, lo si porta anche ormai nelle scuole, quindi anche i ragazzini piccoli saranno imbevuti di tutte queste infamie. E via di questo passo. Poi c'è una rivendicazione invece delle glorie della Chiesa stessa, la Chiesa che ha difeso l'Italia contro Napoleone, la Chiesa che ha garantito con le crociate la gloria navalis italorum, questa gloria delle repubbliche marinare legata all'iniziativa della Chiesa, le due grandi vittorie, Legnano e Lepanto, tipiche della storia italiana, sono due vittorie che la Chiesa ha valso all'Italia, e in più vengono rivalutati i meriti della tradizione storiografica ecclesiastica. Tradizione storiografica ecclesiastica che viene individuata in alcuni momenti: il momento iniziale, Eusebio, Teodoreto, Socrate, Sozomeno, i monaci annalisti nel momento della, decadenza dello stile storico, rappresentano la continuità di una ricerca sul passato, di una testimonianza perlomeno sul presente in vista del futuro, poi baroni o muratori accostati, e curiosamente troviamo però accostati ma divisi, perché mentre l'elogio di Baronio è senza riserve, muratori si dice quambis in eius scriptis multa reperiuntur censura digna, cioè si fa riferimento che in muratori non tutto andava, quindi muratori appartiene a questa tradizione di storiografia ecclesiastica, però facciamo attenzione, non tutto muratori è buono. E poi, facendo riferimento ai destinatari della lettera, uno dei loro compagni di cordata, cioè Angelo Mai. Quindi glorie, diciamo, della Chiesa sul piano storico delle res geste, sul piano della storia rerum gestarum, anche sul piano della filosofia della storia, Agostino a cui si devono rifare tutti quelli che si occupino di filosofia della storia, perché lui solo in fondo ha avuto una visione veramente globale. E occorre quindi che con equis armis, con armi adeguate, la Chiesa risponda a questa sfida, e in questo contesto avviene il riferimento all'apertura degli archivi prima e oggi della sala di consultazione della biblioteca Vaticana. Poi ci sono accenni all'occupazione di Roma, alla schiavitù, alla situazione di prigionia in cui si trova il pontefice, che ritornano in tutta la pubblicistica del tempo. Ora, la cosa interessante, ed è questo che in fondo rappresenta l'aggancio, secondo me, che rende possibile di stabilire una connessione tra questa creazione così controvoglia dell'Istituto Storico Italiano e questi fatti, che hanno un'ampiezza che va molto al di là di un evento modesto come l'istituzione dell'istituto, è rappresentato dal fatto che sul numero della nuova antologia del 1 settembre di quello stesso anno, quindi vedete botta risposta 19 agosto la lettera del Papa, nuova antologia del 1 settembre, Ruggero Bonghi, che sarà uno dei membri del primo consiglio direttivo dell'istituto, il rappresentante della società storica napoletana, era sceso in campo per attaccare tutto questo discorso. E a Ruggero Bonghi risponde, sempre nel 1883, Lucio Galimberti, che poi diventerà cardinale, con un opuscolo intitolato Leone XIII e la storia, risposta a Ruggero Bonghi di un prelato romano. E questo Galimberti mette in luce l'accoglienza favorevole che aveva avuto la lettera del Leone XIII, perché lo stesso Bonghi aveva riconosciuto che c'era un'apertura nuova da parte della Chiesa agli studi storici, ma poi si fa riferimento appunto a queste effemeridi liberali che attaccano la parte relativa all'esortazione agli studiosi perché narrano i benefici del potere temporale, e dice appunto è sceso in campo addirittura il gigante Bonghi, che poi è una sopravvalutazione di Bonghi da parte di questo Galimberti, lo chiama articolista cesareo, vespiglione del dominio temporale, quel tipo di polemica del tempo. E quindi da una parte il giudizio positivo del Bonghi sulla lettera in genere, cotestaura che esce dal Vaticano, e salutare, quindi c'è questo riconoscimento di queste novità e di queste aperture culturali del pontificato del Leone XIII, ma nello stesso tempo escono anche odori non in tutto buoni, come dice il Galimberti, e lì cerca di discutere punto per punto le osservazioni del Bonghi, che con non molta felicità si era appuntato a parlare degli errori cronologici del Baronio, cosa che in fondo era abbastanza scontata, non mi sembrava che fosse un argomento molto forte da discutere in questo momento. E poi che non si poteva far colpa a nessuno di aver creduto alla donazione di Costantino prima del Valla, in fondo dice Galimberti, chi non credeva all'origine greca delle 12 tavole prima della trionfante confutazione del Nibur? Sì, d'accordo, l'esempio vale fino a un certo punto, insomma il livello della polemica non è esaltante. Bonghi aveva messo sullo stesso piano, sì, d'accordo, i centuriatori ne hanno dette di tutte, ma anche Baronio ha fatto lo stesso. E Galimberti si lancia in questa difesa del baronio. Poi ci sono insistenze sul problema. Agostino Bonghi aveva detto: cosa c'entra Herder e Vico con Sant'Agostino? Questo risponde: sì, d'accordo, ma sono tutte filosofie della storia parziali. Questa è l'unica che veramente coglie tutto, è quella di Agostino. Casomai c'è Bossuet, non nominato nel documento pontificio, e poi sostanzialmente il discorso va tutto sul dominio temporale dei papi, e direi che non è inutile adesso stare a, lo riassumerò per iscritto, perché merita, è un documento interessante. Ora, io credo che effettivamente questa polemica abbia avuto qualcosa a che fare con la fondazione dell'Istituto. Insomma, la fondazione dell'Istituto che si presenta fatta così controvoglia, se la mia lettura della relazione di Baccelli è esatta, con tanta prudenza, e così è, viste le modeste strutture di cui l'Istituto veniva dotato, si spiega soltanto se in più, se c'era questa valenza ulteriore di creare in Roma, sia pure modestamente, senza dar fastidio alla società di storia patria e alla regia deputazioni, qualche cosa che potesse rappresentare nel campo degli studi storici un centro di aggregazione capace da tener testa a questa ripresa degli studi di storia ecclesiastica promossa da Leone XIII, e alla quale andavano aggiunte però delle misure di carattere pratico di grande rilievo, come prima era già un fatto scontato l'apertura dell'Archivio Vaticano, e adesso questo fatto ulteriore dell'apertura della Biblioteca Vaticana. Vediamo adesso rapidissimamente, ruberò ancora pochi minuti, cosa è stato dell'inizio di questo istituto. Primo presidente è stato nominato Correnti, Cesare Correnti, uomo di passato risorgimentale, anche però scrittore di storia, poi che insieme a Capasso, il famoso direttore degli archivi, insieme a Crispi già nominato e a Villari, sono i quattro di nomina ministeriale. Tra i nomi indicati invece delle società Storia Patria e Regia Deputazioni c'è un uomo, una stella di prima grandezza sul piano degli studi storici come Michele Amari, direi, e di tutti insomma il nome più illustre, c'è Carducci per la deputazione della Romagna, che vedremo avrà una parte molto importante, c'è Monaci per la deputazione per la società romana di storia patria, c'è Bonghi per la società napoletana. L'istituto era stato creato come istituto storico italiano, però l'istituto immediatamente si dà una limitazione di tipo cronologico, e quindi la limitazione è a monte l'impero romano, discutono nelle prime sedute se dovevano anche occuparsi di storia antica, ma in realtà no, c'è ancora una certa prudenza a questa appropriazione italiana del passato romano. Si vede che il tema probabilmente 20-25 anni dopo sarebbe stato diverso. In questo momento si dice che la storia dell'impero romano non riguarda l'Italia. E poi più significativa, a mio avviso, una limitazione alla fine. Cioè alla fine dell'istituto, a cui la legge non metteva nessun limite, perché lo chiamava Istituto Storico Italiano, l'istituto stesso si autolimita dicendo non andiamo al di là della fine del 400, che è un punto poi centrale della storia italiana, quel punto che ancora oggi non sappiamo se sia appunto il culmine del Rinascimento o l'inizio dei tempi grigi, come li chiamava Ernesto Pontieri, delle preponderanze straniere in Italia. Insomma, è il nodo che intorno a cui si era arrovellato il De Santis nella storia della letteratura italiana. Insomma, come metterla con questo famoso Rinascimento che è anche l'inizio della fine della libertà italiana. E prudentemente l'Istituto Storico Italiano si tiene al di qua di questo nodo difficile da sciogliere. Dopo la storia si sbriciolava, le società di storia patria, le deputazioni di storia patria avrebbero potuto attendere ciascuna per conto suo a curare gli studi a livello locale. E guardate che questa non è una autolimitazione da poco. Apro una brevissima parentesi: gli studi di storia moderna e le cattedre di storia moderna vere e proprie cominceranno in Italia addirittura negli anni 20 di questo secolo. Questo è uno dei fatti, perché erano tutti professori di storia moderna quelli che insegnavano in Italia alla fine dell'Ottocento e nei primi due decenni del Novecento, ma erano tutti in realtà medievisti. E poi c'erano i risorgimentisti, quelli che studiavano il risorgimento. Insomma, la storia moderna, lo studio della storia moderna a livello, insomma, di cultura nazionale comincia in Italia con la famosa spedizione all'archivio di Simancas promossa da Gioacchino Volpe nel 1928-1929, che precede la formazione della fondazione dell'Istituto per la Storia dell'Età Moderna e Contemporanea del 1934. Questo è un punto centrale a cui poi c'è la risposta da parte del regime della creazione dell'Istituto di Storia del Risorgimento, invece con un intento chiaramente nazionalistico nello spirito del fascismo e di quegli anni. Ma questi sono discorsi che vanno molto al di là. Quello che importa è che su questo difficile decollo degli studi di storia moderna in Italia grava certamente questa autolimitazione che l'Istituto si è posto. L'Istituto, che poteva essere l'Istituto Storico Italiano, ha voluto essere, se non nell'etichetta, nei fatti, Istituto Storico Italiano per il Medioevo fino dagli inizi. C'è un immediato fallimento che si registra ripercorrendo il materiale di archivio dell'Istituto su quelle tali iniziative che eccedevano i limiti delle società di storia patria a cui l'Istituto avrebbe dovuto attendere per necessità di cose. Queste, cioè il catalogo delle fonti, la grande bibliografia, tutte iniziative intorno a cui si arrovellano questi bravi signori senza riuscire a esprimere un programma. E quindi alla fine arrivano alla conclusione che l'unica cosa poi possibile da fare è fare delle edizioni di fonti. E quindi appunto fare una collana di fonti dell'Istituto, che non era prevista lontanamente, secondo me, perlomeno dall'atto di fondazione, che si inaugurerà appunto nell'87 con le gesta dell'anonimo su Federico II a cura di Ernesto Monaci. Ed è a questo punto che nei verbali comincia il riferimento costante a quello che fanno i monumenti a Germania. Quando si tratta di stabilire il formato, che è un formato diverso, si dice lo facciamo diverso e spiegano le ragioni per cui scelgono un formato diverso da quello dei monumenta. Fanno riferimento al fatto che i monumenti erano partiti con un tentativo di lavoro cronologico, cioè a tappeto, sistematico, e poi invece i monumenti ci avevano rinunciato anche loro, e quindi l'Istituto, che nasce tanti anni dopo, non si ripromette più questa successione cronologica, pubblicare le fonti in ordine. O perlomeno il problema poi delle sezioni, vedere fino a che punto bisognava comprendere fonti narrative o fonti diplomatistiche, come dividerle, insomma tutto quella che era stata l'esperienza dei monumenta nel momento in cui ci si pone il problema di fare una collana di fonti e diventa un ovvio punto di riferimento. Con questo però di particolare, che contro l'esperienza dei monumenta viene sempre, ritorna come una specie di ronzio insistente di controcanto il riferimento al Muratori. Perché non fare come ha già fatto il Muratori, o perlomeno non limitarci a ristampare il Muratori. Quindi questa continua, visto che ci mettiamo su questo terreno, noi abbiamo già alle spalle un'esperienza consolidata fatta da quest'uomo solo, da questo gigante dell'erudizione e della storia italiana che è Ludovico Antonio Muratori, perché non rifarsi a Muratori? E questo che sembrava essere un motivo retorico della relazione del ministro Baccelli del 1883, diventa un'alternativa reale nel momento che, avendo Giosuè Carducci, che per lunghi anni non partecipava alle sedute e poi in un certo momento comincia ad andarci tutte le volte, essere molto zelante, avendo litigato con la presidenza dell'Istituto per l'edizione di una cronaca minore bolognese, decide di tentare per conto suo, in antitesi all'Istituto, l'impresa della riedizione dei Rerum Italicarum Scriptores, servendosi della collaborazione di Fiorini, che era un direttore generale della pubblica istruzione, che aveva dei poteri ricattatori sui professori di scuola secondaria che chiedevano i trasferimenti, e servendosi di questo ausilio lancia questa collana di fonti alternativa a quella dell'Istituto. Soltanto nel 1923 avverrà una pace, secondo me disastrosa, è il grosso problema di fronte al quale noi ci troviamo, di avere due collane in concorrenza l'una con l'altra, perché gestite dallo stesso istituto, perché quando era nato il rero metallicano scrittore e ristampa erano nati in polemica con le fonti della storia d'Italia. Dal 1923 in poi l'istituto si è trovato sulle spalle un'iniziativa e l'altra, non sapendo bene come fare, avendo nelle stesse mani due cose nate con intenti diversi. E devo dire che nell'intento della presentazione di Rerum Italicanum Scriptoris c'è qui sì chiaramente una polemica di tipo ormai nazionalistico contro la filologia germanica. Dobbiamo essere sbrigativi, basta col metodo dell'Hackmann, bisogna trovare il codice migliore, è inutile, gli stemmi dei codici non servono a niente, e quindi con i risultati che purtroppo si sono visti, perché molti dei Rerum Italicanum Scriptoris nuova serie risentono di questo. Nello stesso momento, e qui veramente ho finito, mi mancano 3 minuti, nello stesso momento in cui l'istituto entra in crisi, insomma, per questa istituzione alternativa, si risolvono anche in parte le sue difficoltà, perché nasce per iniziativa della Società Romana di Storia Patria la cosiddetta Scuola Romana. Cioè la Società Romana di Storia Patria crea nel suo ambito una struttura adeguata alle edizioni di fonti storiche. La Società Romana aveva già cercato di fare qualcosa di simile addirittura nell'84-85, fare dei corsi regolari, che però falliscono. Invece la Scuola Romana, che viene fondata nel 1898, consiste nella possibilità di dare uno stipendio a Roma per alcuni anni a degli studiosi che attendano all'edizione di fonti storiche. Quindi il meglio, insomma, della produzione dell'Istituto Storico Italiano del Medioevo sul piano delle fonti è stato assicurato da questa struttura, che non era dell'Istituto stesso perché la legge non gliela dava, ed era invece della Società Romana. Ed è il momento che usciranno i cartari romani del Federici e del Fedele, e soprattutto usciranno le grandi iniziative ormai negli anni 20, nel primo decennio e secondo decennio di questo secolo, di Schiaparelli, i diplomi dei Re d'Italia e i placiti dei Re d'Italia, che rappresentano un po' le iniziative e il codice diplomatico longobardo, quindi insomma, che sono un po' le colonne portanti dell'istituto. E tutto questo, ripeto, in quanto la Società Romana ha fornito all'istituto una struttura di supporto che l'istituto non aveva, perché la legge non gliel'aveva mai riconosciuta. Struttura che l'istituto avrà soltanto nel 1923 con la creazione della Scuola Nazionale di Studi Medievali annessa all'istituto, che però in qualche modo nasce tardi, e gli storici che sono passati da questa scuola sono storici che hanno illustrato gli studi storici del nostro paese, ma che quasi mai hanno dato edizioni di fonti storiche. Quindi l'istituto si trova oggi in fondo di fronte a questo problema di una sua rifondazione, cercando di recuperare quella che era stata l'ispirazione originaria, senza smentire un passato che è un passato molto recente, molto illustre a mio avviso, ma che era diverso, dissonante da quella che era l'ispirazione originaria, che si era potuta mantenere poco proprio perché la legge non attribuiva all'istituto gli strumenti per fare quello che l'istituto era stato chiamato a fare nel momento che era stato messo in vita. Grazie, scusatemi. Ich will versuchen das kurz zusammenzufassen. Herr Rinaldi hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das heutige italienische historische Institut für das Mittelalter gegründet worden ist 1883 als ein italienisches historisches Institut ohne eine nähere Spezialisierung. 1883 ist das Gesetz zur Errichtung des Instituts, 1885 hat das Institut eigentlich begonnen, 1887 ist die erste Publikation erfolgt, 1887 könnte man immer noch die 100-Jahr-Feier machen, die bisher aus verschiedensten Gründen unterbleiben musste. Unter anderem aus dem Grund, dass das Institut seit 1934 die Bezeichnung oder Beschränkung Mittelalter in seinem Titel hat, dass es seither auch ein italienisches historisches Institut für die Geschichte des Altertums, ein italienisches historisches Institut für die neuere und neueste Geschichte und ein italienisches Institut für die Geschichte des Risorgimento gibt. Die Gründung, die Entstehung des königlichen Dekrets vom 25. November 1883 und die bei folgende oder dazu folgende, der dazu folgende Bericht, wie es zu der, welche Pläne man mit diesem neuen Institut hat, die sind von Herrn Arnaldi ausführlich erwähnt worden. Ich will das möglichst kurz machen. Es geht darum, dass einmal das große Werk von Muratori fortgesetzt werden soll, von dem es in der Relation heißt, nachdem die Deutschen da fortgesetzt haben, wird es höchste Zeit, dass wir das nun auch tun. Dann geht es darum, die staatlichen Deputationen für Landesgeschichte und die privaten Geschichtsvereine, historischen Vereine, zu koordinieren, die Kräfte aller dieser bereits bestehenden Organisationen zu koordinieren, damit alle Kräfte auf die Edition von Quellen verwendet werden können, wobei das Vorbild der Monumenta Germania Historica eigens genannt wird. Das Institut, das gegründet wird, ist allerdings sehr merkwürdig. Ich finde das sehr schön, denn Ähnliches oder Vergleichbares habe ich Ihnen auch zu erzählen. Dieses Institut hat keinen Raum, es hat keine Bibliothek, es hat keinen Etat. Es besteht aus 15 Mitgliedern, von denen 11 von den regionalen Deputationen delegiert sind und 4 vom Ministerium ernannt werden. Die haben die Pflicht, sich einmal im Jahr zu versammeln und sollen dafür sorgen, dass Material für die große Edition der Quellen gesammelt werden soll, wofür die örtlichen Mittel jeweils am Ort nicht ausreichen, wofür man eben eine übergeordnete Instanz braucht. Von Edition von Quellen, nämlich dem, was das Institut dann gemacht hat, muss ich gleich sagen werden, ist in dem Gründungsdekret nicht die Rede. Herr Arnaldi hat dann überlegt, wie es zu dieser so merkwürdigen Gründung, ein Institut ohne Raum, ohne Geld, ohne Bibliothek, für uns schwer vorstellbar, nur bestehend aus prominenten Personen, denn die 15, die das Präsidium bilden, sind natürlich große Leute, jeder hat schon seine Arbeit, keiner von denen wird wirklich selber arbeiten, wie es dazu gekommen ist. Und während die Begründung für diese Entstehung des Instituts natürlich in dem Dekret und auch in dem Begleittext nicht drinsteht, hat er es gefunden in einem Nachruf auf einen der ersten, auf eines der ersten Mitglieder dieses Instituts, Monacci, der auch gleichzeitig der Herausgeber des ersten Bandes von Quellen 1887 gewesen ist. Es sei der Grund gewesen, man habe vom italienischen Staat her antworten wollen auf die Öffnung des Vatikanischen Archivs durch Papst Leo XIII. Und auf die Gründung der Gregorianischen Universität. Die Gründung der Gregorianer, also der päpstlichen Universität, die Gründung der Gregorianer kann nicht gemeint sein, denn die ist wie vorher gegründet. Herr Arnaldi hat aber durch einen Hinweis von Monsignor Maccarone, dem Chefhistoriker des Vatikans, der gleichzeitig dem Istituto Storico Italiano per il Medioevo angehört, gefunden, dass Leo XIII. Im August einen Brief an mehrere Kardinäle geschrieben hat, der veröffentlicht wurde, einen offenen Brief mit den Anfangsworten Sepe numero considerantes, wo viel über Kirchengeschichte drinsteht, sehr polemisch gegen den italienischen Staat, wie das in der Zeit 10, 12 Jahre nachdem der Papst den Kirchenstaat verloren hatte, durchaus üblich war, wo also viel über Geschichte, Geschichtswissenschaft und so weiter drinsteht. Und ganz am Schluss beiläufig steht, dass nun künftig die Vatikanische Bibliothek für das Publikum ebenso geöffnet sein soll wie das Vatikanische Archiv. Darauf ist wahrscheinlich die Gründung des Instituts eine Art Antwort. Jedenfalls hat einer der späteren Mitglieder des Instituts, Ruggero Bongi, einer der großen Kulturleute der 80er Jahre, in der Nuova Antologia vom 1. September, also gleich 14 Tage nach dem Datum der päpstlichen Schreibens, eine heftige Polemik veröffentlicht, wogegen dann wieder der römische Monsignore, wie er sich in dem Buch nennt, Galimberti, später ein berühmter Kardinal, eine Gegenschrift veröffentlicht hat, etc. Diese Polemik hat Herr Arnaldi nur angedeutet. Er hat dann gesagt, der erste Präsident des Instituts ist Cesare Correnti und von Anfang an sei nicht das Altertum und nicht die Zeit nach dem Ende des 15. Jahrhunderts als Aufgabe des Instituts angesehen worden. Das Institut, das ohne irgendeine zeitliche Limitierung als ein Institut für italienische Geschichte gegründet wurde, hat von Anfang an die Absicht gehabt, die Zeit vom frühen Mittelalter bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert zu studieren und nichts anderes. Insoweit ist das heutige italienische Institut für Mittelalter genau der Nachfolger dieses allgemeinen Instituts. Aufgaben, von denen man sprach, wären gewesen ein Katalog aller Quellen zur italienischen Geschichte, eine allgemeine Bibliografie zur italienischen Geschichte. Ich kann nur sagen, gibt es beides bis heute nicht und damals, jedenfalls vor 100 Jahren, hat man sehr schnell gemerkt, dass die Mittel, so etwas herzustellen, fehlten und ist infolgedessen bei Edition gelandet. Erste Edition sind die Gesta Friderici von Monaci, also Barbarossa, eine anonyme Schrift aus dem 12. Jahrhundert. Und bei dieser Edition, der Fonti per la Storia d'Italia, hat man doppelten Bezug genommen. Einmal auf die Monumenta Germania Historica. Und wo man von den Monumenta Germania Historica abwich, im Format etwa, und auch in anderem, wurde das ausdrücklich begründet. Es wurde aber auch und durchaus Bezug genommen auf Muratori. Auf Muratori in dem Sinne, dass man nicht gleiche Fehler wiederholen wollte, nicht Muratoris Texte, die immerhin fast 200 Jahre alt waren, wiederholen wollte, sondern im Sinne Muratoris es so gut, wie man es 1890 oder 1900 machen konnte. Zu den Mitgliedern des Instituts, den vier vom Minister ernannten, gehört der gestern behandelte Historiker Pasquale Villari, gehört der große Archivdirektor Capasso, gehört der kaum viel später als Ministerpräsident berühmt gewordene Francesco Crispi und eben Correnti, Cesare Correnti, der erste Präsident gewesen ist. Von den 11 entsandten Mitgliedern hat Herr Arnaldi 4 genannt. Das eine ist Amari, der aus Sizilien geschickt wurde, Carducci, der aus der Romagna geschickt wurde, Monaci, der römische Deputierte war, und Bongi, der aus Neapel gekommen ist und von dem eben schon die Rede war. Carducci, der bei uns ja nun schon mehrmals vorgekommen ist, ist sehr schnell in Opposition zu dem Institut geraten, weil irgendeine kleine Bologneser Chronik wohl nicht so behandelt wurde, wie er sich dachte. Und damit fühlte er sich veranlasst, die Neuausgabe der Scriptoris Rerum Italicarum von Muratori in Gang zu bringen, was ihm auch gelungen ist. Das ist ein Unternehmen gegen das Istituto Storico Italiano aus Protest von Carducci in Gang gebracht. Und in diesem neuen Muratori hat man auch wissentlich und bewusst die deutsche textkritische Methode, jedenfalls die von Lachmann, bekämpft und versucht auf eine andere Weise, nämlich durch Abdruck der jeweils besten Handschrift, statt einer Redaktion oder Rezension aus den besten Lesarten aller Handschriften, wenn ich das so kurz mal unterscheiden darf, das ist etwas komplizierter, also diese Ausgaben so zu machen versucht, mit dem Effekt, dass einige der Ausgaben hervorragend sind und andere nicht gut. Aber da kann ich gleich hinzufügen, wer sich die Monumenta Germania Historica näher anguckt, der findet auch, dass einige Ausgaben hervorragend sind und andere eigentlich unter jeder Kritik und gar nicht hätten gedruckt werden dürfen. Das wusste man allerdings 1890 noch nicht so gut. Es ist dann erst 1923 zur Vereinigung von dem neuen Muratori und dem Istituto Storico Italiano gekommen und Herr Arnaldi sagt, seither, das heißt seit über 60 Jahren, hat man in einem Haus zwei konkurrierende Reihen, nämlich Fonti per la Storia d'Italia und Scriptoris Rerum Italicarum, und das ist eine gewisse Belastung für ein Institut, welches schon wegen des Formats, das eine sind große Quartbände und das andere sind Oktavbände, die beiden Reihen nicht in eins bringen kann, sonst wäre die Sache verhältnismäßig einfach. Es gibt noch zwei Einrichtungen zur Fortbildung der Quellenforscher der Italienischen. Das eine ist eine Scuola Romana, die für den römischen Geschichtsverein Società Romana di Storia Patria 1898 gegründet wurde und die Möglichkeit gab, dass Lehrer oder Universitätsleute, die keine Professur hatten, für mehrere Jahre ein Stipendium zur Bearbeitung einer Quelle bekamen. Es gibt seit 1923 in Verbindung mit dem Istituto Storico Italiano eine Scuola Storica Nazionale, wo ebenfalls Stipendiaten für mehrere Jahre abgeordnet werden zur wissenschaftlichen Arbeit. In dieser Scuola Storica Nazionale sind mehr Untersuchungen und Darstellungen gearbeitet worden als Edition. Damit will ich aufhören, sonst wird es zu lang. Molte grazie.